L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per colpa vostra adesso non si cambia i calzini più tutti i giorni, se li cambia una volta a settimana. E comunque, Cruciani, i nani. Ma che mostri abbiamo tirato su? Cioè, che razza di mostri abbiamo tirato che su, disastro, Feltri! Feltri! Ma va a fregare niente questo, ma frega niente! È una radio! A lei ha trasformato questa radio in gente che urla, che parla di sesso! Ma è una cosa vergogna, ma non me ne frega niente! Non me ne frega niente! Ragazzi, ci siamo lasciati ieri sera in un modo, ci siamo risvegliati questa mattina senza il sindaco di Milano e con il sindaco di Roma azzoppato. Azzoppato. Allora, andiamo per ordine. Il sindaco di Milano, ragazzi, è una cosa che non esiste. L'autosospensione è un'invenzione di Sala, sì, un'invenzione mediatica di Sala, bravo, per bravo, dire giusto. Devo fare qualcosa perché sono indagato per falso, non avrebbe messo delle firme che non doveva mettere sulla data, una cosa complessa. Quando era commissario a Expo. Sì, quando per la vicenda di Expo. Dunque è una furbata perché non esiste l'autosospensione. Bravo, o bravissimo. Ti dimetti o resti in carica e dici sono indagato, vedremo quello che succede. D'accordo. Invece, con te. Si è inventato questa chiudiamo roba. Qua, chiudiamo qua, hai ragione. Chiudiamo la trasmissione. Vado via. Sì, ma bravo, il tecnico giusto. Sta andando ma via. Cazzo, ma come stai andando via? Scusa. Ma cosa vuoi? Che cosa vuoi parlare? Se siamo d'accordo, su questo. Dato la notizia, chiudiamo qui. 18:38 è più bello. È più bello, è venerdì, è più bello. Ti sei fissato, qua. È una settimana che sei fissato pagati, su questa cosa. Chiudiamo, ma pagati. Chiudiamo qua però. Allora, invece. Perché ha più effetto. Adesso cosa puoi inventare di nuovo? Niente. Sì, può chiamare qualche miserabile come al solito, insultare, fare, dire che fa la pipì nel water. Ma nel water magari la facesse del lavandino. Chiudiamola qui con questa notizia. È bello come hai aperto. Ma quale finiamo notizia? Qua. Dov'è? La gente dice come mai hanno chiuso? Hanno chiuso, basta, finito. Invece c'è un sacco, ci sono un sacco di cose da dire sulla vicenda di Marra, per esempio. Adesso nessuno conosce, se tu chiedi in giro chi è Marra, la gente normale, i nostri amici tassisti, camionisti, ma non perché li reputi ignoranti. La prostituta di Pordenone, quella che vive nel campo. Magari quella lo sa, però, perché attenta alle cose. No, giorno, ma non è vero, quella fa la prostituta. Ma che prostituta? Vabbè, comunque, non sanno chi è Marra. È un signore che è il braccio destro, era... Forse ancora è il braccio destro del sindaco di Roma Raggi, sempre protetto dalla Raggi. Sì. È stato arrestato questa mattina per una vicenda, avrebbe ricevuto dei manette, per aver ricevuto dei quattrini da un immobiliarista costruttore romano che si chiama Scarpellini, anche Scarpellini. Qua nomi sconosciuti alla multitudine, però bisogna spiegare. Pare che abbia avuto uno sconto su una casa. Sentiamolo questo Scarpellini tempo fa, che è il centro dell'inchiesta. No, Scarpellini chi se ne frega. Sentiamo invece la Raggi. Perché non puoi dire Marra è un cittadino qualunque. Cioè, secondo i canoni dei 5 Stelle, la Raggi dovrebbe dimettersi. Cioè, secondo i canoni usati sempre dai 5 Stelle, la Raggi si dovrebbe dimettere. Anche perché il suo braccio destro è stato arrestato. Non c'è dubbio. Arrestato. La Raggi, dai, forza. L'amministrazione va avanti. Il dottor Marra, come ho sempre detto, è uno dei 23.000 dipendenti capitolini e non un esponente politico. Ma come si fa a dire però una cosa del genere? Non è solo un dipendente del comune, era il tuo braccio destro, l'hai difeso nonostante tutto. Sì. Sono uscite le inchieste, non solo dei giornali, le carte della magistratura in cui dicevano che si era arricchito, eccetera, eccetera. Poi adesso l'hanno arrestato, per carità, magari è innocente, però non puoi dire è un cittadino qualunque, un funzionario qualunque. No! Era il tuo braccio destro, l'hai difeso anche contro una parte del Movimento 5 Stelle. Ancora la Raggi, dai! Voglio evidenziare che il dottor Marra non è un esponente politico di questa giunta, ma un dirigente dell'amministrazione da 10 anni. Okay, ma cosa ce ne frega noi? Ma era un suo stretto collaboratore? Ma certo, un strettissimo. Sì, era. Poi è stato spostato al personale dopo. Aveva sempre avuto un ruolo chiave. Alcuni grillini hanno sempre detto alla Raggi: liberati di questo, certo, perché ha dei problemi. E liberati anche della Muraro, gli dicevano all'epoca. Sì, dell'ex assessore all'ambiente. Lì si dimettono tutti. Sembra 10 piccoli indiani di Agatha Christie, quella giunta. Raggi, sempre Raggi, dai. Il mio braccio destro sono i cittadini romani. Ed è per loro che ogni giorno lavoriamo senza sosta. Mamma mia, che banalità. Che se lo sai che questo sindaco è veramente un sindaco banale. È un sindaco che dice delle cose ovvie, banale. Anche incapace, ma sua anche poco furba. Ma liberati di questo Marra. O sei, in qualche modo, gli devi qualcosa. Oppure perché non te ne sei liberata prima da ruoli importanti? Marra collaborava anche con Alemanno, peraltro. Sì, in Marra, signor Marra. Sentiamo Scarpellini che diceva, credo a Piazza Pulita, signor Bertazzoni. Sì, ottimo Bertazzoni, bravissimo Bertazzoni. Scarpellini, come andiamo? Eccolo qua. Ma non ci credo che il re dei Palazzinari ha paura di una telecamera, no? Voglio solo capire questa storia dei 500.000 euro di sconto a Marra. Non mi fa, signorate. No, non voglio, no, non si arrabbi. Lascia stare, perché l'avvocato mi ha detto, questi sono una massa, io non te voglio dire. Una massa di? Dei buffoni, perché ci scrivono un sacco di cose, io devo fare la denuncia. Ancora. Mio figlio è venuto quando il giornale dice, papà, è una persona che lui nel mondo di cavalli, sapete che c'è, sta, trattalo bene, fagli uno sconto. Io, qualche turno, gli ho fatto più lo sconto di lui. Lo sconto sulla casa di Marra. Gasparri naturalmente gongola. Sono già generoso, no, sei molto generoso. Sono buono, però te ne devi andare subito. È un vaffa day oggi. Oggi io dico il vaffa day, vaffa Raggi e anche Grillo. No, la si questione, può dire vaffa day? La questione, cioè, l'ha detto già Grillo. Oggi è il vaffa day. La questione day, è vera, vaffa, che ha detto. Adesso diranno che ce l'abbiamo con i 5 Stelle, che gli altri fanno peggio. Tu l'hai anche votati. Che questo no, a Roma non avrei votati. Che questo qua non era un politico, ma era un funzionario. Ma non c'entra niente, era il braccio destro del sindaco. È stato a lungo il braccio destro del sindaco. Il sindaco ha rivendicato di Roma, ha rivendicato il fatto di avere lui come braccio destro. Questo, certo, qua è stato arrestato. Nella logica grillina, giusto, il sindaco di Roma si dovrebbe dimettere. Guarda, meglio di così non si poteva dire. 18:43, grazie a chi ci ha seguito, ci sentiamo lunedì. No, non è che bisogna per forza fare la parte uno contro l'altro, no? Poi avremo modo di essere uno contro l'altro. Comunque è giusto. Di Battista dice che noi aspettiamo. Dibba. Aspettiamo di vedere le carte. No, amico mio, non fate così di solito. Adesso fanno i garantisti. Perché con De Luca, non fate così col governatore del mondo. Con il governatore del mondo lo mettete in croce. Non fate, aspettiamo di vedere. No! Col governatore del mondo gli fate un culo così per una frase che ha detto sul pesce, che cazzo era, sulla frittura di pesce. Sì, suo figlio. No, magari è anche giusto fargli un culo così. Però il problema è che con gli altri. Con gli altri valgono certe regole, con i tuoi vediamo le carte. Molto bene, molto giusto quello che dici. Molto bene. Si ricorda il caso Muraro? Quanto ci hanno attaccato? È stata anche tantissimo qua la Muraro a spiegarci, esatto, le cose. Noi che cosa abbiamo detto? Ma sono mesi che abbiamo detto. Aspettiamo di vedere le carte. Si ricorda questa frase? Sì, sì. Quando il sindaco Raggi ha visto le carte, ha optato per le dimissioni. Quindi deduco io. E secondo me questo è molto corretto. Scarpi contro i magistrati, scate tutti i magistrati. Senti. Capitò così con me tanti anni fa, nel 96, vent'anni fa, quando mi inquisirono per 'Ndrangheta insieme alla Maiolo, lo imparai a spalato. Scusa, Vittorio, no, ma non la magistratura pensi. Impari la correttezza di comunicare con l'autorità politica che è il primo cittadino. Si vergognino, ma una procura credi, che è un cancro della società. Che c'è però è proprio così. Ancora. sicuramente sarà innocente e Milano è senza guida per l'azione criminale e terroristica di una procura che vuole guidare la politica. Non è accettabile, non è accettabile. Vittorio, sono parole molto, molto pesanti. Sono le parole però. Mie di sempre, lo dico da anni, è sempre stato così. Commissariare la procura a luogo di eversione, cioè la procura di Milano che ha indagato, qui ci siamo spostati su Milano, eh? La procura di Milano che ha indagato il sindaco che si è autosospeso, misura ridicola. Qualcuno dica, ah, Sala si è autosospeso, vedete, noi facciamo così, quelli del PD dicono noi facciamo così. Che vuol dire, non no? Vuol dire un cazzo l'autosospensione, è una finta, o sei in carica o non sei in carica, puoi essere malato. Anche perché chi firma gli atti? Ma del poi lo stipendio lo piglia lo stesso, cioè, ma sì, ma oltre a quello, chi è che firma materialmente tutto? Berlusconi è caduto così, con un'inchiesta grottesca di Milano sulla questione delle ragazze che non c'entrava niente con Berlusconi. È inaudito! La procura di Milano va commissariata perché è un luogo di eversione. Non è allora, tollerabile. Sono naturalmente affermazioni molto pesanti che sono di Vittorio Sgarbi e non nostre. Io non voglio sentire il traffico. Io sono il traffico. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta La Zanzara. Io voglio fare per una volta l'elogio, caro Parenzo, del Presidente della Repubblica, anzi dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Presidente emerito. Quando è giusto, è un personaggio sì. Che politicamente io non sopporto, no, come perché? Sai, non sopporto. Grande, uno che trama grande. All'oscuro, che, fa, invece di fare di stare lontano là, fa, no, una fa grande politica. Storia politica, un, no, o, per carità, un personaggio un che non mi piace. Un comunista tipicamente italiano, grande amico degli Stati Uniti. A disprezzo del voto del voto della gente. Disprezzo del voto della gente. Una delle più grandi figure di questo paese al fianco di Ciampi nel Pantheon. Cioè Napolitano è una delle più grandi figure di questo paese. Una delle figure più autorevoli di questo ma paese. Ha fatto? Dove, ha fatto intanto. Dai, fatto su. Vabbè, ma lasciamo perdere. Combattente antifascista. Allora, però ha detto una cosa giusta. Importante. Davanti alla Boldrini ha sputtanato il presidente della Camera. Ma con delle parole che forse nemmeno io ho mai pronunciato. Cioè nemmeno... No, adesso, ma... No, adesso questo forse è un po' troppo. Mi pare un po' eccessivo. Ma nemmeno io ho pronunciato. No, ma ti assicuro. Scusa, andiamo al punto. Quando sentirai... Tu dici, guarda che tu queste cose qui sul fatto di dire nomi al femminile non le hai mai dette. E io effettivamente non ho mai detto così, forse ho detto di peggio. Allora, dice che ministra è un vocabolo orribile. Cioè, dire ministra invece di ministro è un vocabolo orribile. Orribile. E poi dice anche che dire sindaca è una cosa abominevole. Beh, numero uno assoluto. Grazie al ministro Alfano. Grazie al ministro Valeria Fedeli, penso che Valeria Fedeli non si dovrà, se io insisto in una licenza che mi sono preso da molto tempo, quello di reagire alla trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di ministra o nell'abominevole appellativo di sindaca. Abominevole. Ma ragazzi, è come un abominevole mostro delle nevi, uomo delle nevi. Sì, ragazzi, sì. Ma è il numero uno. Cioè, davanti alla Boldrini, alla Fedeli, quella fedele alla poltrona, no? Il ministro dell'istruzione sì, che non c'ha manco la maturità. Cioè, noi abbiamo un ministro dell'istruzione che non ha nemmeno la maturità. Cioè, nemmeno la maturità. Cioè, ma ragazzi, adesso va bene tutto, il ministro può anche essere senza laurea, va bene, e qualche ministro può venire dal basso, dal mondo del lavoro, dello di opera. Anche Poletti, ma Poletti, quello che vuoi, ottimo ministro del lavoro, la maturità ce l'ha, piacere, la maturità ce l'ha, sì certo, però la maturità la laurea, per fare Poletti, il ministro però... dell'istruzione, per fare delle leggi sui professori, sì. Ma io dico, non dico la laurea, non pretendo troppo, e dovrei pretenderla, ma lasciamo perdere la laurea, sto parlando della maturità. Cioè, non ha la maturità, ha fatto 3 anni di magistrale, sì, no, e poi ha fatto il diplomino, e spacciando anche su questo hai ragione. 18:51, no, grazie a chi ci ha seguito, chiudiamo qui perché è tutto molto bello. Dai, ma le dimissioni, ma se non si dimette una che non ha nemmeno la laurea, si deve dimettere lei, ma la cosa è come non si deve, ma sì, ma si deve dimettere, certo, va bene, d'accordo, ma con che faccia va a fare, ma la Boschi, ma lascia perdere la Boschi, è una cosa politica, ma no, è quello che è più distorto, secondo me. No, comunque davanti a questi signori qua il presidente emerito della Repubblica Napolitana ha avuto il coraggio di dire delle cose sacrosante, cioè che la parola sindaca è un abominio e la parola ministro è una cosa orrenda, sì, orribile, una violenza alla lingua italiana. Ragione al 100%. Sì, ha ragione Napolitano. Rodolfo da Verbania, dai, ecco, Rodolfo da Verbania. Cominciamo a aprire le stalle. Apriamo le gabbie, pronto? Apriamo. Dimmi, pronto? Rodolfo, dimmi, sì, dimmi. Pronto, lei è Cruciani? Sì, ma chi cazzo vuoi che sia? Scusa, Rodolfo, chi sono? Bello. Allora, cominciamo dai fondamentali. Verbania, allora, prima Verbania di tutto io ho detto, lei è il signor Cruciani, le do del lei. Allora, sì, io ti do del tu, se vuoi, se ti sta bene, lei bene. Lei si è rivolto alla signora Rosina dicendo, sì, chiamiamo questa Allora, questa è la prima parte. Ma io non mi ricordo se l'ho detto, se ho detto questa cosa qui, mi sono già scusato con chi di dovere. Con lei non mi devo scusare. Abbiamo telefonato ieri alla signora per scusarci, ovviamente. Okay, ma non è abbastanza scusarsi. Non è abbastanza. Cosa deve succedere? L'impiccagione? L'impiccagione? Ma no, l'impiccagione no. Che cosa? Tu hai sculacciato in pubblico, se vuoi. Vengo sì, io a dartele. Ma guarda, non c'è. Se mi sculaccio una donna, mi può piacere anche. Se no, mi sculacci tu, dire, no, lasciami dire, per favore, non mi tagliare. Allora, ma chi ti sta tagliando? Stai parlando? Fondamentali, l'educazione. Seconda cosa, la signora Rosina, 86 anni, io non so la tua. Ma tu chi sei? Lo zio? Il nipote? Chi sei? Lo zio? Il nipote? Chi sei? No, rappresenti chi? Sono un simpatizzante che la... Anch'io sono nonnina adorabile. Anch'io sono simpatizzante della signora Rosina, assolutamente sì. Certo, ma non è che sono indignato per quello che le è successo. Vorrei chiederti se posso darti del tu con rispetto. Assolutamente. A differenza di quello che tu hai fatto con la povera Rosina, vorrei chiederti. Sì. Tu ti immagini lo shock di subire un tentato omicidio, le lesioni in viso e ti sei permesso dire sentiamo sta cazzo, ecco, no, questo non lo so, ripetere. Se l'ho detto non me lo ricordo, non me lo ricordo. Se l'ho detto mi sono già scusato, mi sono già scusato, hai capito o no? Ma non che c'entra niente se ti sei scusato. E che cosa devo fare? Spiegami che cosa devo fare. Prendi in giro la ministra che non ha il diploma. Io prendo in giro la prima elementare, la seconda. Io prendo in giro. Da una persona che ha subito una violenza terribile, è stata 8 giorni in rianimazione. Dire e prenderla in giro perché è andata giustamente a chiedere che venga messo in galera. Bene. Perché questo è un mezzo assassino. L'abbiamo già chiamata ieri. L'hai già chiamata. Perfetto. Io devo solo fare un bel pistolotto alla radio, perché io sono un grande ascoltatore di Radio 24. Benissimo, ottimo. Ma quando ho sentito questo comportamento vostro, che era, non voglio essere cattivo, ma devi anche essere abbastanza cattivo. Vigliacco, perché una donnettina di 80 anni, c'è 87, nessuna vigliaccheria, l'avete mandata anche in confusione, eccetera, eccetera. Ma no, ma che confusione, ma sì, lascia perdere. Sì, c'è la registrazione Rodolfo, su YouTube, ragazzoni. Hai detto la tua, hai detto sì, ho ragazzoni detto un mia, cazzo, certo. Ragazzoni un cazzo innanzitutto. Allora, dunque, non c'è nessun pilo. Ma hai sempre in mente il membro virile, ma come mai? No, ma qui non siamo, qui non ci sono né ragazzoni. No, sì, esatto, mi piace moltissimo. Non ci sono né ragazzoni né ragazzetti. Ragazzoni e ragazzi, ci sono, stiamo parlando tra persone in salute. Sì, stiamo parlando di con persone normali, fino a prova contraria. Sì, ragazzoni, allora, benissimo. Ragazzi di lascia palestra. Perdere ragazzoni. Il punto fondamentale è un altro. Hai detto quello che pensi. Va benissimo. Hai fatto il pistolotto, ci hai rimproverato. Noi abbiamo chiesto scusa per le parole alla signora Rosina. Dopodiché, chiuso lì, perché ci sono delle petizioni. Fermo, Rodolfo, ci sono. Come mai il marocchino è agli domiciliari quando dovrebbe stare in galera? Ma per me dovrebbe stare in galera, l'abbiamo detto. Noi ci siamo incazzati con la manifestazione fatta dagli indipendentisti. Poi abbiamo esagerato con la Rosina. Perché non hanno diritto gli indipendentisti di manifestare l'indipendentismo? Non abbiamo il diritto noi di criticare gli indipendentisti che strumentalizzano un caso di cronaca. Avete è ovvio che quel criminale deve stare in galera, è evidente, no? Criticare voi che siete due grandi ragazzoni. Dai, bravo, non te la prendere, ragazzoni è bella, Sì, è molto meglio che sti cazzo di ragazzi come voi avete detto alla Rosina. Gianluca, provincia di Pescara, ciao Rodolfo. Ciao, Gianluca. Gianluca. Ciao, buonasera. Dimmi. Allora, io volevo fare una domanda al signor Parenzo. Eccoci qua. Qual è la domanda? Dimmi. Allora, la domanda è questa. Volevo sapere, nella mia ignoranza, quale ricchezza creano gli immigrati? Quale ricchezza creano gli immigrati? La risposta ti sarà data, se ti sarà data, fra circa un quarto d'ora. Ciao. Salute. Rosina si è dimostrata molto più intelligente di voi due caproni. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo è eccelso, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. A girare casa per casa, strada per strada, a raccontare un progetto nuovo di città, la città di Galileo Galilei, la città della più antica università, ritrovare centralità, ridare centralità alla cultura . E mettere insieme i diversi attori culturali, la università, il sistema dei teatri, va ricostruita in città una convivenza civile tra le diverse anime della città che sono state in questi anni violate e violentate, pezzi di città messi l'una contro l'altra. Siamo qui a dire ricostruiremo Padova. Ripeto, nell'illegalità più totale, questa radio farà campagna elettorale per Parenzo sindaco. Molto molto bene, una città che in questi anni ha perso il suo buon nome. Se vai a New York e dici Padova, ti dicono che è la città del sindaco del kebab. Ragazzi miei, uniamo tutte le forze, Padova è una città civile, Padova città della pace, Padova gemellata con i più importanti centri, da San Francisco a New York, multietnica e multirazziale, dove la componente cattolica assieme a quella laica, assieme a quella comunista, assieme a quella socialista, può ricostruire un fronte di liberazione nazionale dal signor Bitonci, che ha deturpato il nome di quella città. Oggi tu quando dici Padova non pensi più al santo bellissimo, alla statua del Gattamelata ad esempio, straordinario, al Prato della Valle che è la piazza più grande d'Europa, no, pensi a Bitonci, pensi all'ordinanza anti-ebola, pensi a un signore che ha lordato il nome della città del santo. Allora io dico, amici, compagni e compagni, fratelli, sorelle, sorelle immigrati, sorelle emigranti, Rom, meno, campagna elettorale è meglio citarli meno, Rom, quelli buoni, quelli integrati, quelli che puliscono il sedere ai vostri vecchi, Rom che puliscono il sedere non ce ne sono, qualcuno c'è, uno ce ne sarà, almeno uno ce ne sarà, uniamoci tutti insieme, un grande cartello elettorale, Podemos, no pasarán, no pasarán, Bitonci, no pasarán. Ma no pasarà al limite, comunque, no pasarán, va bene, al plurale. Allora ragazzi, leggo su una piattaforma che si chiama change.org richiesta di licenziamento da Radio 24 per Cruciani e Parenzo, firmata da un tale che si chiama Lorenzo Greco. Mi risulta che questo tizio, sconosciuto ai più, sia uno di una... Lorenzo Greco non è parente di Gerardo Greco? No, non c'entra nulla, no, assolutamente nulla. È uno che credo sia appartenente ad un movimento che si chiama Viva San Marco. Viva? Cioè, Viva San Marco, cioè vuole l'indipendenza di Venezia. Ma cioè, che stai scherzando? Venezia città-stato, sì. Venezia, cioè, no, il Veneto dipende, ma Venezia città. Venezia città-stato, e l'indipendenza di Milano, ad esempio, e di Spinea. Io voglio l'indipendenza di Spinea, della Giudecca. E di casa mia? Voglio l'indipendenza. Io di casa mia. Sì, anche di casa tua. Ma no, stai scherzando. No, non sto scherzando. Allora, richiesta immediata, sospensione, licenziamento per i signori Parenzo e Cruciani a seguito della trasmissione radio del giorno 13 dicembre 2016, ove i due telefonavano, offendevano e ridicolizzavano una signora di 86 anni che è stata vittima di una rapina in casa, picchiata selvaggiamente insieme al marito e torturata con un ferro da stiro rovente. A distanza di pochi mesi, il responsabile della rapina è stato messo agli arresti domiciliari a 100 metri di distanza, non è vero, a 5 chilometri, ci ha detto ieri la signora Rosina, da dove abita la coppia di anziani. Il resto potete ascoltarlo qui, c'è tutta la cosa. Fino adesso è stata firmata da 1868 1868 e passa sostenitori. Firmate, che cazzo ci frega, firmate. Ma che dici? No, ma firma, la firmo pure io. No, mi sa che la firmo pure io. Vabbè, sì, firmiamo, bellissimo. Firmiamo noi, beh, molto radicale questo, molto alla pannella. Firmiamo noi perché siamo contro noi stessi, il diritto a farci espellere, no, direbbe perché, Marco Pannella da là, il diritto a essere espulsi da questo Parlamento illegittimo. Noi diciamo Tibet libero. Ma che c'entra? Ogni tanto di qualunque cosa accadeva. cosa per Tibet libero. Comunque chiamiamo sto greco, va, chiamiamo sto greco. Sei pronto? Sto parlando con Lorenzo Greco? Sì. Buonasera. Salve, sono Cruciani, ciao. E Parenzo, buonasera. Ma spiegami una cosa, che cos'è che vuoi fare tu? Vorresti che noi fossimo licenziati, sospesi? Certo, certo, certo. E per certo. Quale motivo, scusa? Certo, certo. Beh, mi sembra dopo la trasmissione che avete fatto, mi sembra sì? Che il minimo. Ah, il minimo. Cioè il minimo. Tu, licenziamento. Adesso, scusa, sto lavorando. No, ma scusami un attimo, tu che cos'è che sei esattamente? No, cos'è esattamente? Ti spiego meglio le cose. No, ma cosa sei esattamente? Non mi ricordo. Chiamami fra un po' e ti spiego meglio le cose. No, ma tu che... No, ma spiegamene... Io sto lavorando... Ma che lavorando, lavorando? Ciao, dai. Ma qua. Oh. È un deficiente Radio 24. Cos'è che ha detto sto fenomeno? Un deficiente di Radio 24. Richiamiamo. Forse non hai capito, sto lavorando. No, ma tranquillo, un attimo, se uno chiede il licenziamento dopo, di una persona, dopo, se uno chiede il licenziamento, ma devi anche spiegare perché certo. Imbecille. Beh, questo signore, certo, per carità, non saremo certo noi a essere stupiti per un vaffanculo, non è quello il problema, no, assolutamente. Perché? Però non mi pare proprio in vena di discussione. Cioè, no. Uno fa una petizione. Dovrebbe argomentare. Spiegaci tutto. Poi ha un microfono, ma poi parlare. Ma questi che sono i cosi? Ma questi che sono? I portavoce della signorina, della signora, della nonna Rosina? Della signora Rosina, con cui ci siamo ampiamente spiegati, con cui abbiamo parlato, e solo lei è titolata a parlare. Ci non siamo scusati, pseudo rappresentanti. Ma lei ha citato le scuse la signora. Ma poi, sì, ma cioè, al di là di questo, ma questi chi sono? I rappresentanti legali? O i parenti si possono incazzare, certo, i parenti, sì. E i figli se ne ha, non mi ricordo nemmeno se ha figli, non presunti indipendentisti, uno che dice richiamiamo un po' questo stronzo, queste cose mi fanno veramente girare i coglioni. Perché basta, a un certo punto uno fa le scuse, per carità, va bene tutto, alla signora, questi che si autoproclamano rappresentanti di qualcosa, no, abbiamo fatto le scuse alla signora Rosina, voi non ci rompete i coglioni, chiaro? Mo non risponde più questo qua, Mo non risponde più questo codardo. Questo codardo, signor Lorenzo Greco, un codardo. Uno che vuole il nostro licenziamento, sospensione, quello che è, un codardo. Non risponde al telefono, risponde, il codardo. Sì. Il codardo. Spiega. Dai, vieni a spiegare, forza, hai scritto, vieni. Hai fatto la petizione, dici perché vuoi l'indipendenza di Venezia, magari, sì, interessante questo, come è molto cosa. Importante, se l'indipendenza di Venezia è fondamentale. Venezia città-stato. Sì, ma città-stato. Frega niente. Venezia, vado all'Aris Bar, mangio, bevo benissimo. Ma come me ne frega di della indipendenza? Ma che cosa mi invitate a fare qua? Frega niente, a me. Allora, Mercedes, provincia di Varese, vai, Mercedes, dimmi. Pronto, buonasera. Dimmi, Mercedes. Ascolta, dimmi. Sono arrabbiata. Prima di tutto, hai ragione la signora che ha detto tutto extracomunitario che sta qua, se va a lavorare, può stare qua. E gli altri che vanno a fare, a rubare, a ammazzare, a tutto, mandalo al suo paese, una. Ma tu che sei, aspetta, ferma, calmati un attimo. La cosa incredibile è che sono più incazzati gli extracomunitari integrati contro gli immigrati di quanto non lo sia un leghista, di quanto non lo sia, eccetera. Bravo, tu da dove vieni, Mercedes? Io vengo da Repubblica Dominicana. Sono dominicana, come sei tu dominicano, che si alzano qua alle 5 del mattino, prendono il pullman e vanno a lavorare onestamente. Dove vai a lavorare? Dove vai? Io vado a lavorare a una casa di riposo. Pulisci il culo ai vecchi, in pratica? Beh, adesso fai anche altro. Faccio di tutto, pulisco. Faccio il mio lavoro calamente. Ma io ho detto che una cosa avete ti dicevo. Avete sentito, signori della Lega? Avete sentito? Prendano un aereo e mandalo a casa, che è una vergogna per noi stranieri, perché sono tanto africani che vanno a lavorare onoramente, non come lui che fa il pagliasso. Vabbè, ho capito, Mercedes, bello, però, figo, ha ragione, però tu vai nelle case di riposo a aiutare gli anziani, a pulirli, eccetera, eccetera, e quello canta il rap. Sì, cioè, però fa fare brutta figura. Canta il rap. Cantare a suo paese. Vabbè, ma ho capito, Mercedes. È una vergogna per tutti noi stranieri che vanno a lavorare, che ringraziamo l'Italia, che mangiamo tutti i giorni. grazie all'Italia, i verdi dei capelli, tanto rispetto per l'italiano, lei che prende un aereo e se ne vada. Calma. Allora, tu ce l'hai con il signor Bello Figo, che tra l'altro è italiano, anche se di origine ghanese. Tu ce l'hai con Bello Figo per un motivo molto semplice, perché secondo te sputtana quelli che lavorano qui, gli stranieri che lavorano qui, o sbaglio? Sì. Che cosa fa? Castigliara, canta canzone del cavo. Perché non canta canzone al signor, a Dios? Se mette a cantare canzoni. Amica mia, Mercè, ognuno fa quello che vuole nella vita. Tu lavori in una casa di riposo, quello là canta le canzoni dicendo voglio wifi. Ma questa è l'immigrazione alla quale, grazie signora, per la sua testimonianza. Ma non è vero, ma anche Bello Figo è un ghanese. Chi è? Passami tuo marito, chi è tuo marito? Sì, adesso te lo passo, perché passa mio marito. Ma che è italiano? È italiano, che è? È italianissimo. Passami un attimo. Queste sono le belle storie della bella Italia. Bisogna inaugurare una rubrica che sia bella Italia. Chi è? Sono Luca, il marito della Carmen Mercedes. Ciao. Carmen Mercedes, come si chiama? Carmen o Mercedes? Senti, non ho capito, anche tu sei incazzato con Bello Figo? Certo che sono incazzato, cioè voglio dire, io sono forse lo specchio dell'integrazione tra italiani e stranieri. Mia moglie, sono sposato con mia moglie 10 anni, ho 2 figli. Vabbè, non è che sia marocchina, è sudamericana. Dire, comunque di colore, cioè. Vabbè, ho capito, ma è diversa colore, la cosa, vedete. Dai. È diverso, non è islamica, dai, non è. Vabbè, non è neanche svedese, comunque. È più facile, dai, è più facile. No, ti sbagli, perché guarda che le latine sono veramente difficili, Vabbè, difficili come personalità, mica. Che c'hanno di strano? Spiegami. No, però giustamente lei dice: io mi alzo, mi faccio un culo così tutto il giorno. Arriva Bello Figo che mi dice wifi. Noi wifi ce lo paghiamo, se lo paga anche lei wifi, cioè non c'era nessuno grazie su wifi. Vabbè, wifi, albergo, mi alzo, uno mi piace alzare. Ma scusa, 5 della mattina non lavorai, 5. Ma perché tu a che ora ti alzi, scusa? Io mi alzo con lei, la accompagno, poi vado a lavorare e poi le sento a casa in pullman. Scusami un attimo, amico, ma il problema fondamentale è un altro. Questo Bello Figo dice che gli piace svegliarsi tardi, scoparsi le donne bianche e fammi quelle nere, vedi che differenza. Fa fare brutta figura appunto ai migranti, che bravi, che seri, figura, che lavorano, crea un'immagine distorta. Dai, la bella Italia è questa. La bella Italia è quella di questa famiglia straordinaria, forte, valorosa, ma che si alza la mattina alle 5:30, va a lavorare. Ma adesso stai sputtanando Bello Figo, che è un artista. Bello Figo a me non stava mai troppo. Poi è andato lì subito, gli amici di dalla vostra parte l'hanno individuato, preso, sbattuto in un agone televisivo dove ci sono 20 persone urlanti, Poletti collegato con questi 20 urlanti. È stato pure la Santoro. Questo utile idiota, perché Bello Figo questo è è un furbetto utile idiota messo lì alla causa del nemico, cioè quelli che pensano che l'immigrazione sia tutta brutta. Invece da oggi noi inaugureremo una nuova rubrica che si chiama Bella Italia. Non è nessuno, non c'è nessuna rubrica. Immigrazione di immigrazione. Ma non è vero. Bella Italia. Fermi lì. Lo sai perché vi ascolto volentieri? Perché sono troppo meglio di voi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Raga, ieri ci avete fatto due coglioni così, siete scusati con tutti. Natale, siamo tutti più buoni, adesso basta, abbiamo fatto, fino all'anno nuovo non ci rompete più il cazzo, vogliamo sentire un po' di sangue, grazie, ciao. Ma ha ragione questo qua, insomma, radio scusa di ieri, basta, tra Andromercù e la Lazio, e la vicenda della Rosina, è tutto giusto, tutto corretto, però basta ragazzi, non ci fracassate i coglioni con le petizioni, con le cose, non ci rompete i coglioni, non ci rompete le balle, chiaro? Poi potete dire quello che volete. Però basta, abbiamo chiuso su questa vicenda. Abbiamo chiuso. Andiamo via? Finita la trasmissione? No, andiamo via. Giacomo da Genova, dai, Giacomo. Giacomo. Ciao, buonasera. Dimmi, Giacomo. Ciao, Cristiano, guarda, sei un genio. Ma perché? No, ma che genio? Sì, un po' genio sono, però dimmi. Non la sa come sei. Vai, no, dimmi, dai. Allora, io mi chiedo una cosa, cioè, veramente, parlavate prima di questa, della ministra. Poi non si Fedeli. Esatto. Allora? Cioè, la mia domanda è questa, ma questa gente qua, no? questi la maggior parte dei nostri politici, amministratori, io mi chiedo se hanno perso il contatto con la realtà oppure proprio se ne fregano totalmente, vanno avanti per la loro strada, non contendosene di noi. Cioè, È una cosa incredibile. Hanno tirato fuori, hanno fatto questo referendum di cui, cioè, che non lo voleva nessuno. L'hanno politicizzato, personalizzato, ne hanno fatto una bandiera del governo, convinti con la loro arroganza tipica di vincere. Poi l'hanno perso. Rifanno un governo, e questo era anche giusto, ma cosa si inventano? Hanno tirato, pur di metterci, hanno tenuto la Boschi. Vabbè, però non c'è niente di nuovo in quello che dici, Giacomo. Abbiamo già ascoltato nei giorni scorsi il governo fotocopia di quello precedente, la Boschi che è rimasta al suo posto. Non c'è niente di nuovo, però io mi chiedo questo. Ma secondo te e secondo voi, se qualcuno vuole rispondere, è che proprio non hanno consapevolezza di quello che stanno facendo, oppure lo sanno e se ne fregano? Non di lo so, noi sono più attenti alle alchimie politiche, alle relazioni interne ai partiti. No, hanno un'esigenza, quella di cambiare la legge elettorale. Ma quello che c'entra però con la scelta dei ministri. La scelta dei ministri è sbagliata. Quello è il frutto siccome hanno un obiettivo. Sì, ma non volevano scontentare nessuno. Avevano già un problema di maggioranza, quindi dovevano tenere compatto il Partito Democratico. Discorsi noiosi, non frega niente a nessuno. Ma siccome l'obiettivo principale è cambiare la legge elettorale, perché non si può andare a votare in questa roba qui, hanno detto: prendiamoci sti ministri, facciamo una bella legge elettorale che piaccia alla maggioranza del Parlamento. E non sarà possibile questo. Cioè, qua non piacerà ai 5 Stelle alla Lega, ragazzi, ma a tutti gli altri non sì. Non puoi mettere dentro Lotti, inventarti il Ministero dello Sport, mettere dentro e metterci su questo Lotti. Sono d'accordo con lei. Pietro da Milano, cosa? Vai. Pietro sono d'accordo da Milano con lei. Pietro. Che devo fare? Sono d'accordo. Sì, Giuseppe, ciao, dimmi. Buonasera. Allora, la situazione sconcertante è non solo il fatto che il ministro abbia, ma ragazzi, ma il ministro si deve dimettere immediatamente. Mi stupisco di come non si dimette. La cosa è che non si sia ancora dimesso. Ma stiamo scherzando? Dopo aver millantato di avere di qui e di là e non avere nulla. Ma scusate, ma vi ricordate cosa è successo con Giannino? Che gli hanno fatto un culo così? Sì, come non ci ricordiamo, anche noi abbiamo fatto il culo, per carità. Appunto, per che cosa? Cos'era un master? No, laurea e master, però, ma non è quello il punto adesso. No, adesso non è inutile ricordare la vicenda di Giannino, però è vero, hai ragione. No, è pazzesco. Io sono un insegnante, ma scusate, io che devo dire a questi studenti che magari portano una giustificazione? Che il ministro non è manco, non è manco, non ha manco la maturità, non ha nemmeno la maturità. Diversa la cosa. Occidentale, uno che dice una balla del genere può ancora stare lì sulla poltrona, per piacere, su. Perché c'è la cosa ridicola che ha spacciato questa cosa qui come un errore lessicale. In realtà è una cosa tutta voluta. Tu metti laurea in scienze sociali, metti laurea in scienze sociali, ma in realtà non c'è nessuna laurea in scienze sociali. Secondo, siamo seri, via. Dai, solo perché hai manicato con i sindacati, che cos'è? No, ma non è per quello, non c'entra niente perché ha manicato con i sindacati. Se è una logica politica e basta, dai, non ho capito, ma se tu non c'hai manco la maturità. Avete ragione. La posizione, ragazzi, su. Fatela, dai, smette, Roberta Siracusa, qualcosa. Giustamente questo qua che è insegnante si incazza, Roberta Siracusa, sì. Vai. Io sono abbastanza. Non sento niente, Isidoro, provincia di Napoli, dai. Uè, Peppe, buonasera, come stai? Sì, ma vi conoscete, siete ma amici? Che ne so, va bene, Peppe, come stai? Peppe, come stai? Peppe, Peppi, io volevo dire una cosa, ho ascoltato il maestro di Bombo. No, io sento benissimo, Isidoro, dai, forza. Vabbè, ho ascoltato lo spot elettorale del grande Paronzo. Vabbè, che vuoi dire? Che cosa vuoi dire, Fenomeno? Vorrei proprio prendere la residenza a Padova, proprio per vantarmi di non aver votato un coglione, sinceramente. Piacere, Parenzo, molto lieto. Lei come si chiama di nome? Isidoro Coglione, ha detto? No, non ho capito. Mi pare di capire. Ci tenevo a darti questo appellativo. Nome di battesimo Isidoro, cognome? Ho telefonato, come? No, ho detto nome di battesimo Isidoro, il cognome veramente Coglione? No, quello sei tu. Vabbè, ma che vuoi, Isidoro? Cosa vuoi? Cosa vuoi, Isidoro? Che cosa desideri da noi stasera? Volevo fare una precisazione. Tu hai dato la notizia in apertura della vicenda del sindaco della G, del sindaco della G a Roma. E hai detto il braccio destro della Tina, precisa però le notizie dalle ragazzi, è stato a lungo il braccio destro del sindaco Raggi. Come no, il braccio destro, ma che c'entra? Queste sono le cazzate che ti raccontano. Sono le cazzate che ti raccontano questi dei 5 Stelle. È un semplice dipendente comunale. No, è stato, non è il popolo di Roma il braccio destro, è stata una persona vicinissima al sindaco Raggi. Sì, questo sicuro, non c'è dubbio. Ha rivendicato questo rapporto. Addirittura in qualche indiscrezione, lei ha detto. se va via lui, perché a un certo punto gli altri dei 5 Stelle, alcuni dei 5 Stelle lo volevano far fuori, vado via pure io, virgolettato, poi era un'indiscrezione, non c'è mai stata una dichiarazione ufficiale. Scusa, da questo punto di vista c'è una dichiarazione del GIP, che è quello che materialmente ha firmato l'ordine di arresto. Non è oro colato, non è oro colato, dice era Marra, pericolosità sociale, è uomo di fiducia di Raggi. Dopodiché è vero che quello che ci sono delle carte della procura, sì, ma magari non corrisponde alla verità, però uomo di fiducia di Alemanno, certo, di fiducia anche. Di e infatti è il motivo per cui la base dei 5 Stelle era incavolata con la Raggi per la scelta di tedersi Marra, era una di quelle non si può dire come ha fatto non si può dire come ha fatto oggi la Raggi, che è un semplice dipendente comunale, il mio braccio destro è il Popolo di Roma. Sono minchiate propagandistiche, dette anche male, minchiate propagandistiche che non valgono per quello che valgono. Cioè era il braccio destro del sindaco, secondo la logica grillina. Oggi la Raggi si dovrebbe dimettere, cioè i grillini in una situazione simile avrebbero chiesto le dimissioni di un altro sindaco, per molto meno hanno chiesto la testa di De Luca e altre migliaia di persone, semplicemente perché persone vicine a loro sono state indagate. Certamente. Questo è stato arrestato, magari è innocente, ma è stato arrestato. Io ripeto, secondo la logica a me non me ne frega niente. Non me ne frega niente, però secondo la logica grillina, cioè se rimane la Raggi o no, a me non me ne può fregare meno, ma secondo la logica grillina dovrebbe dimettersi ieri, non oggi, ieri. Via. Alla fine, ragazzi, però a me appassiona molto di più la vicenda della Fedeli, devo dirti la verità. Non so perché. Sei così appassionato a questa roba. No, cioè, ma perché le vicende di Roma e Milano. La Fedeli nel caso sospensione di Sala, autosospensione di Sala a Milano, il disastro di Roma. L'autosospensione è ridicola. Siamo d'accordo. La Boschi che ritorna con ruolo. La cosa più clamorosa è la Fedeli. Sai perché? La Fedeli, ha fatto un'ingenuità clamorosa, ha scritto una stupidaggine. Perché, amico mio, quando uno racconta quelle cazzate. È molto più appassionante e divertente rispetto sia alle cose politiche, la Raggi, per carità, Marra. Però un ministro dell'istruzione che non ha manco la maturità. Va bene, la laurea non la richiediamo, d'accordo. Però almeno la maturità, sì, e soprattutto siamo d'accordo, perché non lo dici? Chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega, dillo. Io mi sono diplomata in magistrale. Poi ho preso un piccolo diploma di assistente sociale, quello che è. Una cosa nobilissima. Perché uno si deve vergognare di questa roba qua? Siccome uno si vergogna perché è diventato importante, magari vent'anni fa non l'avrebbe detto. Assolutamente. Siccome è diventata importante, e allora deve scrivere questo laureata. Vero, siamo d'accordo, scrivi laureata, naturalmente poi ci deve essere anche la maturità. E chi ha scoperto tutto questo? Chi caro? È Sherlock Holmes? Un nostro amico nemico. Chi è il tenente Colombo? Uno con cui battagliamo spesso. Mario Adinolfi, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Eccolo ragazzi. Qua. Buonasera. Allora, diciamo subito, Mario. Non è che ti sei messo a fare a un certo punto lo Sherlock Holmes sulla Fedeli, perché la Fedeli ti sta sulle palle per un motivo, politicamente ovviamente, non per i capelli rossi, immagino, no, non per la capigliatura un po' così, come ho definito perché io un po' da... è stata una delle madrine della straordinaria legge sulle unioni civili. Io avrei fatto direttamente non è il matrimonio. Non è proprio così. Ti sei accanito su di lei per questo, dai, su, ma mica... No, diciamo, se volete la motivazione per la precisione è il suo disegno di legge sulla educazione di genere obbligatoria nelle scuole. Ah, ottimo, sei buona proposta. No, quello anch'io non sono entusiasta. Lei è una paladina del mondo omosessuale, transessuale, eccetera, e tu comunque non ti sta simpatica, per cui appena vedi una cosa, una piccola cosa, in questo caso non è piccolo, vai giù pesante. Come sei arrivata alla questione della maturità, per esempio? Allora, perché fermo restando che ovviamente la nomina di Valeria Fedeli alla pubblica istruzione mi ha molto allarmato per le ragioni perché? Che ho detto, per quel DDL. Cioè, perché vuole introdurre che cosa, secondo te? Scusami. No, non secondo me, ha proprio scritto un disegno di legge, prima firmataria Valeria Fedeli, per rendere obbligatoria l'educazione di genere nelle scuole. Non ho capito, che cosa vuole fare? Obbligatorio l'educazione di genere, cioè alla diversità. Esattamente. Cioè, secondo lei i professori l'italiano, latino, geografia e gender. Ma no, vabbè, ma non è che vuole introdurre la materia gender, dai, no, su Mario. No. Cosa c'è di grave? Voi sapete, io non dico cose a caso, io dico cose che sono. Ma non mi pare grave questo? Il disegno di legge sull'educazione di genere della senatrice Valeria Fedeli e vedete. Cioè, secondo la Fedeli bisogna introdurre nelle scuole una materia obbligatoria. educazione al gender, educazione è una puttana, ha ragione, su questo ha ragione Adinolfi, dai. Ma che dite? Ha ragione Adinolfi, dai, su questo ha ragione Adinolfi. Scusatemi, ma ha ragione Adinolfi. State facendo credere all'Italia, ai 2 milioni e mezzo di ascoltatori della Zanzara, state facendo credere all'Italia che il problema è che si insegni a scuola giustamente la diversità e quindi che cosa ma non c'è gender? Bisogno di insegnarla, non c'è se bisogno. Non lo si insegna a scuola si arrivano le discriminazioni, ma non è vero, si arrivano a ragazzi che ma si quando fa mai, si, il suicidio dei ragazzi ma omosessuali, ma ragazzi, ma su questo vero, non dai. Si scherza, no Pasaran, no Pasaran su questo, ragazzi, io so Mario, tu sei sensibile perché sei il padre di una bellissima bambina e io su questo non voglio scherzare, due bambine, scusami, due bellissime bambine, ti chiedo scusa, due bellissime bambine, io ho 3 figli, Cruciani ne ha una. Allora non posso, noi non siamo contenti se ci vengono a fare l'ora di gente, non posso credere, tu sai che ci sono state storie di bambini, di ragazzi che si sono uccisi per la vergogna di essere omosessuali, perché la società, dimmi una storia, è pieno, fai il giornalista, ti trovo su questo, proprio la storia qualche mese fa di un bambino che per la vergogna di essere omosessuale, siccome ancora c'è nella società un pregiudizio, si è ucciso per quello. Vergognatevi ancora con questo. Bisogna dare battaglia contro ogni discriminazione. Detto ma questo, non è che la non è quindi, nelle scuole. Vabbè, è comunque, e quindi insegnare nelle scuole, ragazzi, la diversità, ecco perché aveva ragione la Fedeli, è fondamentale. Insegnare la diversità. Ma ci stanno froci dappertutto, dai, ci stanno froci dappertutto, in televisione, da tutte le parti. Adesso abbiamo un insegnante che ci viene a dire che esiste l'omosessuale. Lo faremo. Padova lo farà. Come lo farete a Padova? Ho già parlato, scusi, sindaco. La Repubblica Autonoma di Padova. Sì. Padova lo faremo, sono candidato sindaco, faremo questo. Vabbè, cosa. Allora non ho capito, Mario, tu sei andato, come hai scoperto questa cosa della maturità? Partendo da questa cosa, ma semplicemente faccio il giornalista. Io ho letto laureata in scienze sociali, dove voi so che la laurea in scienze sociali è stata varata negli anni 90 e una che no, ma poi la maturità? La maturità? E che ci vuole a quel punto? A quel punto c'era stata un'intervista di Fiorenza Zarzanini, Fiorenza Zarzanini, solitamente molto gagliarda su quella sera, che mi aveva chiesto, ma che titoli su lei? Ha detto, ho fatto la maestra d'asilo. Anche questo la Zarzanini avrebbe dovuto dire, ma dunque lei non ha fatto manco la maturità, perché sì, si sa che negli anni 70 la maestra d'asilo la facevi con la triennale magistrale, senza fare la maturità. Era molto semplice, non è? Io ho fatto 2+2 leggendo semplicemente i dati della solitamente gagliarda Zarzanini, che invece lì era piuttosto, come dire, amica della ministra, amica della ministra, boh, adesso amica della ministra, se ti dici quella cosa, la prima cosa che dici, ma dici, allora ministro, lei non ha neanche la maturità, è una domanda. Vabbè, comunque secondo te se ne dovrebbe andare ieri, se ne dovrebbe dimettere immediatamente. Lascia ma perdere però sto genere. In qualsiasi paese del mondo, come sapete perfettamente, una che avesse detto sono laureata in scienze sociali e non c'ha manco la maturità, ditemi voi in quale paese del mondo sopravviverebbe. Ma che c'è? Va bene, ma il problema del governo di questo governo Gentiloni Renzi non è quello. Frega. Ma ancora a parlare di Benedetto però... Croce non è neanche laureato. Benedetto Croce, cosa c'entra? Non della laurea, stiamo parlando della menzogna. Ma sì, la ha detto una cazzata, è evidente. No, il problema è la Boschi, non la Fedeli. No, ma lascia perdere, la Fedeli è la dimostrazione del fatto che prima dice che non voleva la poltrona e poi ha preso la poltronissima al Ministero dell'Istruzione. Prima questa vergogna, c'è già una vergogna. Secondo, dice che è laureata, poi si scopre che non è nemmeno laureata. Non ti indigni, non solo è laureata. Muoiono i migranti, non vi indignate così. Ma non c'è la maturità. Quando muoiono i migranti, non ti indigni così. Stai facendo. No, perché fate delle campagne del cazzo su delle cose che, per carità. Quando si suicidano i bambini omosessuali nelle scuole, Adinolfi non alza una mano e adesso rompe le balle sulla storia della pseudo laurea della Fedeli. Guarda, è una cosa incredibile. Adinolfi non l'ho mai visto indignarsi perché dei bambini omosessuali sono uccisi per la vergogna. E sta lì a pontificare sulla Fedeli. Del governo Berlusconi gli avrebbero fatto le campagne per settimane sotto casa. Ha ragione Adinolfi, ha ragione. Scusa, ma Gentiloni, chi c'è? Telesi, che vuoi dire? Che sei? Che Telesi? Che vuoi? Telesi, che c'è? Che ma dici? E come cavolo si fa, David, a dire una sciocchezza così? Abbiamo massacrato Oscar Giannino, era al 4% il giorno prima delle elezioni, si è dovuto ritirare da premier. È arrivato l'altro. Si è dovuto ritirare. Abbiamo massacrato persino un perito, Ezio Denti. Vincenti, che ha una laurea chiesto, breve nell'università di Friburgo del caso Bossetti, pagine e pagine di giornali, ha dovuto produrre il diploma e si è detto no, ma una laurea breve acquisita a Friburgo, abbiamo distrutto chiunque sulla laurea, il trota rispetto alla Fedeli, siccome lo abbiamo giustamente massacrato, meglio il trota della Fedeli, ma un titolo di studio, Dio santo, però è vero, ha preso la maturità, meglio ha preso un 36. Allora il problema è che questa laurea della Fedeli è partita laurea, e meno male che c'è stato Adinolfi, devo dire, è partita laurea, poi è diventato diploma di laurea, adesso non è neanche maturità, amico mio, di che stiamo parlando? Dai su, ragazzi, una follia. Dai, adesso il problema dell'Italia sarà la Fedeli. Ma la domanda è, i buoni professori che ora sono nella scuola italiana, come fanno a farsi comandare dopo che alcuni sono stati tolti dal concorso perché erano laureati ma non con gli esami giusti, sarà da una che non ha neanche il diploma? Ma siamo d'accordo, ma dove sono le dimissioni? Ha ragione Adinolfi, cavolo. Sarà commessa di pernacchie da studenti e docenti, perché chiunque lavora nella scuola e sa la fatica che ci vuole per diventare insegnante, non si farà comandare da una ministra prigioniera con la terza media. Però ragazzi, Adinolfi ha pure una teoria assurda, perché poi adesso io e Telesi siamo d'accordo con lui, però c'è anche una vicenda. Secondo Adinolfi, chiunque tocchi la questione gay, chiunque sia favorevole ai gay, cade, alla fine cade. Questa è la teoria di Adinolfi. Tutti i governi favorevoli alle coppie gay, ai matrimoni, cadono. Vabbè, questa delirio. È la teoria adinolfiana. Mi dispiace perché ha fatto due colpi giornalistici, questo è un delirio puro. Cioè lì il problema è la laurea. Cosa pensa sui gay la perché Fedeli? Pensi che tutti può interessare che... Adinolfi? A noi non frega nulla, ma se non hai la laurea, scrivi laurea, si chiama falso. Adinolfi, perché è un reato. Adinolfi, perché pensi che tutti quelli che toccano i gay o comunque che sono vicini ai gay cadono alla fine? Che io c'è? Non è che lo pensi, io punizione divina, che c'è? La punizione divina, che c'è? Che David Cameron, François Hollande, vabbè, ma dai, ma che c'entra? Da Patero, Renzi, ma che Clinton, dai, ma è un caso, ma è un caso. Ma perché sono tutti a favore, in tutti i paesi ci sono, è la prova che tutti i paesi, non è che cade la Clinton, non l'hanno letta, non è che cade, cioè, non è che cade, dai, su, ma che stai dicendo? Dite che è casuale, voi dite che è casuale. Però, ma Cameron ha perso il referendum sull'Europa, che c'entra di soci? C'entra niente. Anche Renzi ha perso il referendum. No, ma non è io ho appena perché detto Renzi cade perché ha introdotto la legge sui gay. Renzi, ma, non ho capito. È un delirio. Sono convinto che milioni di cattolici, ma qua, l'omofobo Adinolfi, l'omofobo, aveva appena detto è un genio. Ha fatto due scoop. Ora scopre che l'hai fatto per sbaglio. Però, Massimo, c'era un po' di persone che hanno scritto, ci ricordo. Ma che ci ricordiamo? Ma tu e Gandolfini ve lo siete ricordati? Però scusami, aspetta ancora, una cosa. Ancora un'ultima cosa. Aspetta, Mario, aspetta un'ultima cosa. Un'ultima cosa. No, anzi, poi ti lascio ancora in onda due minuti. Però, se a Roma, oggi che tu chiedi pure le dimissioni della Raggi, no? Secondo la logica grillina, ma spiegami una cosa. Ma se governasse il Papa, andrebbe meglio Roma? Ma sicuramente. Vado a fare. Ma come sicuramente? Ma come il Papa Re? No, ma dai, ancora. Cioè, meglio il Papa Re. Ridateci la Fedeli, va. Almeno siamo in questo secolo. Al Papa Re, agli anticlericali come. Ma chi è che fa rumore? Ragazzi, togliete sti telefoni, dai, su, mamma mia, che casino. Siamo alla radio. Agli anticlericali come lui. Quando ci diranno come è morta Emanuela Orlandi, ne riparliamo, dai, su. Vabbè, fermo lì, dai. Fermo, resta lì. E gli gay, che c'entrano i gay? Più Parenzo, meno Cruciani. La Zanzara. Allora ragazzi, abbiamo in collegamento con noi Mario Adinolfi, che poi in pochi lo hanno detto, noi lo vogliamo dire, pur facendo grande battaglia con lui su molti temi, è stato l'autore degli scoop che stanno inchiodando il ministro Fedeli, sia quello sulla finta Fedeligate. Io ho detto anche Fedeli, Fedeli non alle cazzate come scrive Dagospia, ma Fedeli alla poltrona, nel caso molto suo. Fedeli. Molto fedele alla poltrona. Ragazzi, questa qua è una che ha detto: se non mi voglio accanire con la signora Fedeli, non me ne frega assolutamente nulla, non la conosco, eccetera. È una che aveva detto 5 giorni prima delle elezioni del referendum. Ma è chiaro, non voglio l'alibi, noi non siamo incollati alla poltrona, ce ne andiamo tutti. Ministro ce ne andiamo tutti. Dai, su, poi parlare? Gli hanno detto scusa, neanche ma si... deputata, via, ci dimettiamo. Collegamento dai. Con Libero, Vittorio Feltri, buonasera. Ma cosa parlare? Ma frega niente, è un'Italia dove ci sono marocchini che violentano e stuprano, ma frega niente a me questa roba, ma vado via, dai. Ma come vai via? Va via, quello va via. Vabbè, se n'è andato. D'accordo, se n'è andato. Allora, Mario, spiegami. Ma è tornato Feltri. Frega niente, devo fare Libero oggi. Il titolo di domani sarà Sala ha violentato due vecchiette. Ma questo è l'Italia. Ma no, questa roba qua è solo indagato. In realtà è solo indagato per falso. Ma frega niente l'indagato. Vabbè, Mario, io non ho capito una cosa. Vuoi Roma governata dal Papa? Che dici invece della Roma della... governata dal Papa? Andiamo. Beh, sì. No, voi come hai appena poi, detto, l'hai detto tu, hai detto che la Fedeli si deve dimettere perché è amica dei gay e che Roma va governata no, dal Papa Re. Ho detto che la Fedeli si deve dimettere perché è amica, non perché è amica dei gay, sto dito l'hai fatto tu. No, però, agli italiani. Però il fatto che è amica dei gay per te già è un peccato mortale. Non c'entra niente, io gli gay non ce l'ho. È gender, il gender. Vabbè, su quello. Anch'io sono contro questa educazione qua. Allora, io ti voglio chiedere un'altra cosa. Ma tu proibiresti, per esempio, i viaggi che fanno le persone in Svizzera per l'eutanasia? Cioè, li proibiresti, li arresteresti questi qua? Non li posso proibire, però certo io sono contro. Ah, vedi, sei favorevole alla libertà dell'individuo che va e si spara il veleno nelle vene. Sei favorevole a questo? No, non sono favorevole. Ti rispetti quella libertà. Io sono favorevole, no, rispetti la libertà. Cosa vuol dire? Rispetti la cioè libertà. Uno si può uccidere. Nulla. Uno si può uccidere evidentemente, non come puoi impedire il suicidio? Evidentemente non lo puoi. Ho capito, impedire. Ma questi che vanno in Svizzera per il suicidio, li proibiresti? Proibiresti questo viaggio o no, ma questi viaggi? Dire proibiresti? Che ne so, li arresteresti questi qua? È una cosa che non puoi fare. Questi che portano i parenti a suicidarsi. Ragazzi, è una questione molto seria e delicata, non ci cazzeggiamo sopra. Ma chi sta cazzeggiando? Esattamente. Nessuno sta cazzeggiando. Mi piace che è la stessa posizione mia, che non può impedire niente a nessuno. Va bene, poi Gentiloni, è un catto comunista, come lo consideri? Uno vicino pure lui ai gay, al mondo LGBT? Per niente catto. Beh, un po' catto, ma come? Ma come no? Gentiloni Silveri. Bene, io Gentiloni ha un'origine cattolica, ma non è un cattolico, è un... Ma, è vero, dall'extra parlamentarismo di sinistra passato all'ambientalismo e dal Partito Radicale. Quindi vabbè, ma anche lui vicino al mondo, anche lui vicino al mondo LGBT, LGBT. Dovete fare la differenziazione che è molto interessante tra rutelliani no, e no, non ci interessa a noi queste cose qua. No. Non gliene frega niente agli ascoltatori. LGBT è anche lui per forza. È anche lui vicino è vicino a LGBT oppure no? Non penso che lui non farà gli errori che hanno fatto i suoi predecessori. Cioè, faranno lo stesso, farà lo stesso, dici? Non farà nulla, non farà gli errori che hanno fatto i suoi predecessori, perché lui è destinato a durare. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Allora, ci sono Valeria Fedeli in giro per l'Italia? Valeria Fedeli, sentiamo, va. Valeria Fedeli in giro per l'Italia, la gente è incazzata e chiama Valeria Fedeli. Cioè, le persone sono incazzate, vedono sull'elenco Valeria Fedeli. No, sì. No, dai, questo no. Sì, sì, la gente è incazzata. Ma che mi inventando? Scrivono, sì, che pazienza che c'hai, che pazienza mi scrivono. Senti, senti, certo, senti. Pazienza. Voglio sentirli. Pronto? Signora Valeria Fedeli? Sì. Sì, buonasera signora, io mi chiamo Ugo, io sono un cittadino qualsiasi, lei non mi conosce. Però io volevo dirle che sono assolutamente basito. Ma lei signora ci ha presi in giro, ma non si vergogna? Ma ascolti, ma... Ma non si vergogna, lei non ha nemmeno il diploma di maturità e mi lanta di avere una laurea. L'ha scritto anche su... Ascolti una cosa, ma guardi che io mi chiamo Valeria Fedeli, ma non sono quella... Che ma signora, Roma, signora, lei mi prende in giro, lei c'ha i capelli rossi. No, io i capelli ce l'avrei bianchi, però lei non mi... è che sono quella Valeria Fedeli lì, ma lei signora, prima di incominciare a offendere le persone... Ma signora ci ha presi in giro, ha detto che ha una laurea in scienze sociali. Ma io, ascolti, ma... io gli sto dicendo che non sono quella Valeria lì. Ascolta, a me no, mi scusi signora, ma lei mi sta dicendo... Scusi, a me mi serve questo telefono. Sì, mi scusi signora, no, questo, ma mi dica... Vaffanculo, Pronto? Ma signora mia, mi chiude il telefono in faccia. Senta, dice... io sono la figlia. Questa Valeria Fedeli qui non è quella là. Hai capito? Scusi, forse allora ho capito male. Voi, cioè, la signora con la quale ho parlato non è la ministra? No, se no, anche perché la ministra non credo che abbia il telefono così pubblico come la mia mamma. Oh, mi dispiace, ma non si vergogna a chiamarsi come la ministra che insomma non è, no, neanche mai la ministra che deve vergognare del nome che porta. Ah, dice bene, amministrerebbe molto meglio la mia mamma. Cioè, c'è un gran bei soldoni e fa quello che vuole. Per dire le bugie. Senta, mi passa sua mamma, per favore, vorrei scusarmi personalmente con lei. Se ora gliela passo, la mamma si fa due risate. Io l'ho già fatta, comunque, ora gliela passo. Ascolti, signora... lei mi ha aggredito, ma io non sono quella Valeria. Ma lei non cambierebbe il cognome per non essere uguale alla ministra Rosso? No, ma io, guardi, a me questi personaggi del Parlamento mi fanno tutti schifo, eh. Che poi la Fedeli è quella che ha fatto andare avanti le teorie gender. Tutte schifezze, che non se ne vuole più. Mi stia bene. Buonasera, arrivederci. Non se ne vuole più. Valeria Fedeli in giro per l'Italia. Sanno tutto, se Valeria Fedeli, ma io non ho mentito, io non dico le cazzate. Pensa se entra in una scuola. Pensa se deve fare una di quelle cerimonie, aspettano i ministri, ti consegno il diploma di maturità e quello lo prende e fa. Tieni tu. Vabbè, non è che il ministro consegna i diplomi. Ma no, come no? Accade i discorsi. Fabio non da Treviso, tieni un discorso in un liceo. In carcere. Dov'è qua? Consegno. Paolo da Milano, vai Paolo. Paolo. Dimmi Paolo, dimmi. Buonasera a tutti ragazzi. Dimmi. Vorrei fare i complimenti a Parenzo perché l'imitazione di Fetre è grandiosa. Ma sì, poi, grazie. Volevo spezzare una lancia a favore di Bello Figo. Ma chi è questo qua? Non frega niente. Vado a cena, me ne frega ascoltare questo cretino qua. Me ne frega niente. Vabbè, allora Paolo, non ho capito. No, con tutto il polverone tirato su con Bello Figo, no, eccetera. Permesso che io lo considero un genio, perché comunque. Ma fa male alla causa dei migranti quello lì. Ma chi se ne frega della causa dei migranti? È il numero uno bello figo, ragazzi. Vi piglia tutti per il culo. Va benissimo. Esatto. Vi piglia tutti per il culo. Voi non cliccate. Se lo odiate, lo minacciate di morte, eccetera. Non cliccate sopra i suoi video. Basta quello e lui non guadagna più niente. Esatto. Cioè, ma che volete da Bello Figo? Piglia per il culo gli italiani o piglia per il culo i tic degli italiani, i wifi, le cose. Fa bene, canta, non fa nulla di male. È italiano, peraltro, viene dal Ghana. Chi se ne frega? Io non è che sono contro quelli che vengono dal Ghana. È diventato italiano. Allora Paolo, che c'è? Dimmi. Fare una riflessione, no, a sto punto. Siccome tutta la gente adesso si sente offesa dal fatto che Bello Figo dice vengo qua a scopole bianche, no? Sì. Ma allora riflettiamo un attimo invece su tutta la gente che va nei paesi del Sud America piuttosto che in Thailandia a scoparsi le fighe nere. Allora, ma hai ragione tu, ma Bello Figo dice un tema alto questa questione. No, ma Bello Figo, ma Paolo, hai ragione tu. Bello Figo dice le stesse cose o vuole le stesse cose, cioè lavorare poco, divertirsi con gli amici, dormire fino a mezzogiorno, scopare le fighe bianche e chi più ne ha più ne metta, guadagnare tanti soldi, eccetera, che diciamo sono delle cose abbastanza comuni. Poi qualcuno può volere delle cose diverse, Parenzo può piacere andare a vedere un film film francese al cinema alle 22:40. Quello al cinema esatto, non gli va di andare e gli fa orrore il cinema, lo ha detto, il cinema gli fa schifo. A Telese magari piace di più leggere un libro, non so di quale filosofo ungherese, ma va benissimo, anche se Telese è uno più di popolo in realtà. Di popolo. È molto più di popolo. Passeggiata a Porta Portina. però alla fine Bello Figo fa le cose, dice le cose che la maggior parte degli italiani vuole fare, trombare. Lavorare di meno, eccetera. Sì, che gli volete dire? Un'immagine distorta del fenomeno dei migranti. D'accordo, i wifi, dice queste cose qui, l'albergo gratis, i wifi, le fighe nere, poi però è a favore dei marò, come la metti questa cosa qui? Ha fatto pure una canzone su Mussolini, esaltava pure Mussolini. Ma infatti è un furbetto, è un simpatico furbetto che su questo ha trovato un filone e fa i soldi su questo, dopodiché... Va bene, Elga, provincia di Bolzano. Ma frega veramente niente, ma mi invitate a parlare di Bello Figo, ma io mi piace la Bella e Figa, non Bello Figo, non me ne frega niente. Scusi, Petra, che c'è tra Bella e Figa adesso? Ma sì, ma non me ne frega, ma sono già annoiato, me ne frega, mi fate parlare, non me ne frega niente. Dove va? Vado a cena a mangiare al Baretto Baglioni, buonissimo, almeno 1.000 euro tutta la settimana. No, 1.000 euro sarebbe un po' troppo. Sicuramente. È uno una cosa di disprezzo. Ma non me ne frega niente, ho guadagnato tanti soldi in vita, io non me ne frega niente a me. Ma Elga, provincia di Bolzano, dai, Elga. Sì, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica, Elga, questa è incazzata con me. È incazzata con me, sicuro. Buonasera, signora, io sono qua l'unico educato. Lei è un mio idolo. Io spero guardi, che lei parli con me nonostante che io sia una tedesca di merda. No, io non ho detto tedesca di merda, signora, no perché non sai la polemica. Non sai la polemica, adesso magari me la recupero. Aspetta, no, voglio ricapitolare prima. Sì. Elga, voglio ricapitolare. Allora, qualche giorno fa, quando ci sono state le consultazioni al Quirinale, è uscito fuori il signor Berger della Sud Tirol Volkspartei. Io non è che amo molto. No, vabbè, non me ne frega niente, chi lo conosce? Io manco lo conoscevo prima. Colpa mia che non lo conoscevo, per carità. Uno di questi deputati della Sud Tirol Volkspartei. Va benissimo, per carità. Che dopo aver parlato in italiano ha parlato anche in tedesco. Okay. Ora io ho detto alla Cruciani, diciamo, che andasse a parlare questo tedesco di merda a casa sua a Bolzano. C'è l'audio, mandiamolo, dai, mandiamo l'audio, dai. Ce l'abbiamo o no, ragazzi? Non mi dite che ce l'abbiamo, poi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, se no, lo mando io che ce l'ho. No, qua. Appunto, ce l'ha più lei. Ce l'abbiamo o no, sto audio? Regia! Vabbè, comunque, ho detto questa roba qua. Oddio, l'Alto Adige, insulto alla lingua tedesca. La Costituzione prevede che. Io ho detto, a parte che la Costituzione non prevede che uno parli al Quirinale in tedesco, la Costituzione prevede che c'è il bilinguismo in Trentino. Per me possono fare tutto il bilinguismo del mondo. Possono pure parlare solo in tedesco, non me ne frega niente. Sì, però quello lì è un senatore. Il punto fondamentale della è che Repubblica il Italiana. Il Senato parla in italiano. Oh, quando certo. esce dal Quirinale parla in italiano. Quando poi torna in Alto Adige parla in italiano. Poi non me ne frega niente, va benissimo. No, anche perché se sei italiano in Alto Adige e non parli bene tedesco, ti fanno un culo così. Ti sbattono fuori. Dai, su, ci siamo giocati le vacanze in Alto Adige. No, ma va bene tutto, va bene. Io ho semplicemente detto in maniera un po' forte che il tedesco, e ci sono tanti problemi per gli italiani che sono in Alto Adige, ma lasciamo perdere questo. Il tedesco lo parla a Bolzano e spiega una cosa inutile, perché non c'è bisogno di comunicare in tedesco quello che sono state le consultazioni del signor Berger, perché diciamoci la verità, non ce ne frega nulla di quello che dice il signor Berger sulle consultazioni. Zero. L'importanza ce ne frega, è il giusto, qualche volta sono stati decisivi per qualche maggioranza la Le riforme riforma costituzionale, e infatti hanno quattro senatori. Bravo. Comunque, Elga, che cos'è? Non ho capito, Cinese cosa ha votato al referendum. Tutti questi mesi stiamo parlando solo di Berger. Vabbè, allora Elga, non ho capito. Non ho capito veramente ancora cosa ha votato. Elga. Posso dire qualcosa sulla Fedele prima che dico qualcosa? Ma no, ma sì, una di bella qualcosa. Cosa seria. Allora, guardi, io... quelli che parlano così mi stanno su coglioni, non so perché. Io non sono d'accordo su nulla di quello che dice Adinolfi, però Adinolfi questa volta mi delude, perché lui non è che può dire... Adinolf. Cioè, questa cosa della Fedele è veramente Fedeli. Perché una cosa. Ma lei è italiano? Si chiama Fedeli, signora. Io questo non lo sopporto. Io, lei è italiano o tedesca, signora? No, mi spieghi? Fedeli. O austria? Lei che cosa si sente? Lei si sente italiana o. Lei si sente italiana o più austriaca? Mi dica. Italiana dell'Alto Adige. Brava. No, perché è l'italiana dell'Alto Adige? Vabbè, che fastidio, sta cosa. Vabbè, comunque. Elga, non ho capito, pure tu ce l'hai con me perché ho detto questa cosa sul tedesco? No, ma se l'ascolto tutti i giorni, ma lei per me, lei non ha letto quello che l'ho scritto stamattina? No? Beh, amica mia, non c'ho il tempo, forse sì, forse l'ho letto, sono scordato. Io le volevo solo dire che l'unica cosa per cui a me mi è dispiaciuto che lei ha detto questa cosa, anche nella sostanza, lei ha ragione, perché io trovo inutile che questi giù a Roma parlino in italiano, no? No, in tedesco, inutile che parlino in tedesco. In italiano. Dopo che ha parlato in italiano, l'unica cosa che mi ha dato fastidio... Quel cazzo di tedesco. Purtroppo i nostri estremisti qua dell'Alto Adige, che purtroppo sono pochissimi... guardi che noi in italiano adesso ci abbiamo pure contro questi qua, gli estremisti dell'Alto Adige. Io non aprirei altri fronti. I bombaroli, gli ex bombaroli dell'Alto Adige, speriamo di no, signora mia. Ci abbiamo avuto in ordine gli ultra della Lazio nei giorni scorsi qua sotto. Tu non lo sai. E ora gli Schutzen. Adesso però pure la signora qua. Non è una Schutzen, quindi non la confondere. Ma che dicono gli estremisti, signora? Sì, gli Schutzen per me sono già estremisti. Ma che dicono contro di me? Che dicono contro di me? Ma contro di lei niente, però questa è era una cosa superflua. Perché purtroppo... Vabbè. No? Allora... Vabbè, signora, la devo salutare. Arrivederci. Siamo al top, ragazzi. Siamo al top. La Zanzara. Orribile appellativo di sindaca... abominevole appellativo di ministra. Napolitano dalla nostra parte, dalla nostra parte. Tutti i marocchini via, sono ladri e bastardi come te, Parenzo. Hai capito, Parenzo? Col signor Napoli, poverino, è stato minacciato, ha avuto paura, oh, ma devi capirlo. Invece con la signora poverina, quasi novantenne, che ha rischiato di essere uccisa, la piglia per il culo. Bravo Parenzo, complimenti, sei tu un grande razzista. Parenzo, la Rosina ti ha spaccato il culo, sei un coglione. I nani. Parenzo, sei un pezzo di merda, mi auguro che vengano a casa tua, ti stuprino tua moglie e ti... e non so quante bastonate ti devono dare, poi la capirai come ci si sente. Bravo, bravo Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. La Zanzara. Del fiume. Ma chi sono questi? Ma tu non sai, ma nulla, come? Ma non sa niente di Richard Benson. Ma, ma Richard... chi è questa cosa di Richard Benson? Richard il senatore Richard Benson. Non hai mai sentito nominare il senatore Benson? Il senatore Richard, ragazzi, tormentone della zanzara. La storia di Richard Benson prevedeva anche queste frasi. Ha visto anche questo qua, sentite. Un programma preciso. Primo, riformazione delle scuole, portare il rock, la musica heavy metal nelle scuole, studiare la chitarra, il basso, la batteria, possibilmente che le scuole siano moderne, futuristiche e che abbiano anche delle sale prove per cui i ragazzi possono divertirsi mentre imparano. Le rive del mare, no, del fiume. Un tetto e un lavoro. Altro programma di Richard Benson, oltre al rock nelle scuole. Sentite, è un grande bestemmiatore, tra l'altro, il signor Richard Benson. Ecco, evitiamo magari. No, no, quello non si può mettere. Naturalmente, è una roba incredibile. Sì. Tu vai a sentire su YouTube, è sì, tipo, è peggio di cosa. Come si chiama il tuo amico, quello che sentivi sempre? Come si chiama? Quello di Verona, che è quello che sentivi sempre. No, non si chiama così. Germano Mosconi. Non sono preparati ad affrontare la realtà dei fatti di questo sistema moderno. Un altro punto è questo: io darò alla gente un tetto sulla capoccia, prima cosa. Un lavoro, anche se umile, che però lo fa guadagnare. Però questa è una cosa un po' grillina, no? Cioè Richard Benson alla fine è come i forconi, come, delirio, come i grillini, c'è un tetto e un lavoro, è cioè, un delirio, dice, un tetto, è come il Telese di qualche anno fa, che diceva un tetto per tutti, un lavoro. Beh, per tutti, certo, cioè il Telese tutti, cioè... di sinistra diceva un tetto e un lavoro. Ma vai a vedere a chi ti ha paragonato, ma Telese, scusa. Telese sempre di sinistra, ma non è coglione, no, come ti immagini tu. Cioè, senti quest'altra cosa, questo è il programma di Richard Benson, più politico. Ma frega niente a me di questo qua, ma chi è questo? Ma frega niente. Adesso dico l'ultimo punto: serve più polizia, armate che hanno una grande istruzione, che sanno come fare, specie in quartieri come a Roma. Cito il Mandrione, Tor Pagnotta, Borgata Fidene. A Genova, dove una ragazza da sola dopo le 9 di sera non può girare da solo nei vicoli. Poi Napoli, Palermo, la Calabria, tutta l'Italia. Io farò in modo di proteggere la persona più importante, ovvero il cittadino italiano. Sulle rive del fiume. costume. Il programma di Richard Benson, ragazzi, è da adottare il programma di Richard Benson, eh. Ma alla fine è come cittadino italiano. Ma che cittadino? Questo è romano. E le forze dell'ordine laureate. Allora vi faccio, vi sottopongo un quesito. Forse, è meglio il basta di forse è dalla Fedeli, le deve formare la Fedeli. Poliziotto laureato. Allora, secondo voi il basta di Richard Benson è più forte del basta famoso di Giannino? Partiamo con Richard Benson, vai, il basta di Richard Benson. E adesso dico una cosa, perché necessita pure a me Richard Benson, un ex rocchettaro che si mette in politica, di dire tre o quattro frasi che spero vi rimangano dentro, dentro al cuore, dentro le viscere, dentro al cervello. Basta! Basta! Basta! Basta! Questo è il basta di Benson. È un basta molto tonale, molto profondo, ma non cresce come quello di Giannino che arriva all'orgasmo. Ah, senti, sentiamo, sentiamo. È un climax. È un climax. Basta, basta, basta! Basta! Basta! Basta! Lo senti? Sì. Lo senti il climax? C'è il climax c'è. Qua. Sì, ma quello, ragazzi, ma è meglio quello di Richard Benson, quello è un rocchettaro. Ma che stai dicendo? Quello è un po' con i denti. Ma, con no, i denti, ma perché qui per con una... i denti scavati quando di Giannino. Basta! È Oscar. Senti, risentiamo quello di Oscar. Ci credi? Sì, ci credi con i denti un po' da Giannino, dai. Basta! Non è senti, pieno. Senti. Giannino? Basta! Basta! Basta! E qui lo senti che sbrocca. Intensa. E invece Benson è standard, è suono. Non allora, è Claudio, provincia di Bergamo. Vai Claudio. Sì, ciao. Una piccola curiosità. La Fedeli, che è originaria di Treviglio, l'anno scorso il sindaco di Treviglio, anche lui ha dichiarato una laurea che non aveva. È stato fatto dimettere e si da è chi? Dimesso. Da chi è stato fatto? Si è dimesso da solo, non è che è stato fatto dimettere. No, si è dimesso lui ovviamente, ma i persona sinistra, seria. La sinistra di zona ha causato un putiferio che più finiva. Il sindaco di Treviglio. Deve essere lo stesso, sì. Bravo. Bene. Senti, fai anche tu basta. Vabbè. No, ma no. Alla Fedeli, di un basta. Ma non lo sa, Claudio, non è un indignato. Claudio, sei indignato, dai il Claudio. Peggio di te. Io? No, non riesci a fare un basta. Sono indignato. Vai, sfogati. Basta. No, non mi viene, non ho una voce così. Va bene, Maria da Padova, vai, Maria. Oh, da Padova, ottimo, dalla mia città. Vai, Maria, dimmi. Città che presto governeremo. Buonasera. Buonasera a tutti. Vai, dimmi, Maria. Sì, veloce, niente. No, veloce. Ma perché la devi pressare? No, dai, dimmi Maria, dimmi. Basta. Come Benson, basta, non è possibile, non è tollerabile. Il ministro Fedeli. Fedeli, cioè, basta, Fedeli ministro. Ma fai una petizione anche tu, a me non piacciono le ma che dobbiamo fare più di quello che diciamo? Mi sembra sufficiente. Ma fai barricate, però davvero state trasformando. D'accordo, si deve dimettere, ma state trasformando questo caso di questa signora sindacalista. Ma non ti vergogni a dire quello che è? Ma perché chi se sindaco si ma state trasformando il caso che in questa qui come fosse il Watergate. E sembra il Watergate. Adinolfi ha scoperto. Cosa cazzo ha scoperto Adinolfi? Che non è laureato. Siccome la qui c'è una grande inchiesta di Adinolfi. Il Watergate. No, cinici. No, no. È impazzito. Nixon, boia, è impazzito. Via gli averi. Siccome Fedeli, boia, via la Fedeli. Ma ragazzi, ma di che state parlando? No, ma hai fatto un numero da clown. Ma che dite? Siccome qui c'è una persona molto importante, ti sei citato e dato un po' di spettacolino. Il caso della Fedeli, ma come scusa, fosse il caso più falso. Ma se le istituzioni raccontano un falso, perché le persone dovrebbero credere alle istituzioni? Ma non c'è dubbio, vi siete dimenticati perché si è dimesso la IDEM? Perché per Renzi Iosefa IDEM per 200 euro di IMU. Dai, siamo scherzando. D'accordo, siamo d'accordo. La canoa alla idem. Io ho detto che si deve dimettere, ma trasformare questo nel caso del ma governo. È il caso. Allora, in Germania si è dimessa per due pagine copiate nella tesi del dottorato. La cosa più ridicola del mondo viene però, ragazzi, da Milano. La cosa più ridicola del mondo. Vi dico questa cosa qua. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Dico, a Milano, ma frega niente questa roba qua. Aspetta, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato oggi il prefetto di Milano, Alessandro Marangoni, per comunicargli la decisione di allontanarsi momentaneamente dal suo incarico. Questa è una cosa interessante. In seguito al coinvolgimento svolgimento dell'inchiesta dei lavori sulla piastra di Expo. Sì, il sindaco, a quanto si apprende, non ha parlato al prefetto di autosospensione, no, parentesi che non esiste, non esiste, ma ha utilizzato la formula prevista dal regolamento del comune dell'assenza temporanea. Ma ragazzi, ma fate, no, fate ridere i polli. Assenza, cioè, assenza temporanea è malattia quando uno sta male. Assenza follia temporanea, ecco, questa è una, ma cosa, dai, cioè, ma è una, se cosa uno patetica, va a fare un affronta intervento, a petto in fuori i magistrati dicendo sono innocente e non mi dimetterò. Questo non fai la cacatina dell'assenza, certo, temporanea. Ma che roba è? Una roba da poveracci, dai, lo dico con tutto il rispetto di Sala, ma è una roba da poveracci, solo per il marketing, no, politico della comunicazione. È una cosa, è una frubata furbo mediatica. Perché, dai, adesso ci chiamerà qualcuno e ci dirà: ma com'è serio, Sala? No, no, no, la gente, com'è, la gente, no, non serio, se la beve, non se la beve, non se la beve. No, fermi tutti, fermi tutti. A Cruciani, ma come te pettini, che è micetto? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Crociani. Allora ragazzi, ogni tanto Lurid. No, che cazzo. Facciamolo sentire un attimo. Come pompa il ritmo. Allora ragazzi, ma dove è il carbone? Che c'entra carbone? Perché c'entra carbone? Cose belle. È deputato del PD, è carbone. Cose belle la ma vita. Ma che cazzo lo conosci? Chiamiamolo. No, carbone, ma uno che no, dice no, ho un lavoro a cui tornare. Vai, no. È una settimana che parliamo di carbone e cresci. Scusami, alle 20:36. Io, scusate un momento, non ho capito una cosa. Per cosa hai votato Telese al referendum? Questo non ho ancora capito. Astenuto. Sì, è astenuto. No, ma però, è stato ha preso legittimamente parte. Legittimamente parte. È un uomo che ci mette la faccia. Ma perché Cruciani chi ha votato? Io non ho votato. Ma è bello così. Non lo so, per la prima la volta, scuola per... dello struzzo. ma per chi ha votato Telese? Diamo delle belle notizie. Allora, no, però no, pensa a questa cosa. Ho una dignità, ho un lavoro a cui tornare. Se perdo me ne vado. Bello, secondo me è il renziano. Ma dove sono questi? Ma non è il renzismo, è lo sparacazzarismo. Allora ragazzi, che è in forma strepitosa Teresa. Allora, e poi quando è dal vivo qua e non sta con quel cazzo di telefono collegato, è strepitoso. Allora, ma frega niente, comunque il telefono ne frega niente. Allora, notizia importante e soprattutto bella notizia. Sparò al ladro, era legittima difesa. Sparò al tu, ladro. Ma quanto ti esalti? No, bellissimo, stupendo. Però aspetta, stavo 10 mesi ai domiciliari questo qua. Questo è un contadino vicino a Cesano, a Roma. Hanno fatto le indagini, vedi, anche lui lo dice. Contadino, un allevatore. No, hanno fatto le indagini, il cazzo. Ha sparato un ladro che gli ha rotto i coglioni. Le indagini. No. Ma se sparasse a tuo figlio? Allora aspetta, assolto. Ma no, ma che merda, se mio figlio va al ladro fa bene a sparargli. Assolto un 70enne che aveva ferito a fucilate un romeno armato di accetta, scoperto a rubare attrezzi nella sua proprietà. Bene. Aspetta, l'uomo era stato indagato per tentato omicidio. Era rimasto agli arresti domiciliari per 10 mesi, perdendo soldi, lavoro, eccetera. Ieri il giudice l'ha assolto. Ieri, in realtà, non era ieri, qualche funziona giorno. La giustizia, è questo. Si chiama Umberto. Allevatore, uomo, un gran lavoratore. I romeni gli hanno rotti i coglioni. Ma assolto dopo 10 mesi. Ma capito? Ma ha sparato uno. Che schifo, che mi fate schifo. È il sistema di garanzia. Chiamiamo, tu stai di garanzia. Esci da questa stanza. Ma in Arabia Saudita. Facciamo io e Parenzo. Facciamo io e Parenzo, se no fai troppo casino. Ma no, ha ragione Telese, però in Arabia Saudita devi andare. Chiamiamo Umberto. Scusami. Pronti? Umberto, mi dica. Come andiamo? Tiriamo avanti. Ce la siamo cavata o no? Beh, penso di sì, Anche se poi quanti mesi hai fatto in galera? 10. Cioè in galera, ai domiciliari, comunque uguale. Sì, ma ho lavorato più del beduino. Comunque sì, 10 mesi ho fatto. Ricostruiamo un attimo quello che è successo. Sì. Tu hai preso a fucilate un romeno, giusto? Sì. Ma era entrato in casa, che aveva fatto? È dentro l'azienda, qui sì, si sta portando via. Dopo 4-5, cioè in tutto 6 furti ho ricevuto io, però 4 ho fatto le denunce. Sì. Poi non c'avevo tempo perché io sono solo e praticamente. Ma che roba si portavano via? Allora si è portato via polli, prosciutti, sì, roba in officina, ciò che ha trovato, sì, naffeta ai trattori, sì, e poi altri furti che qualcosa mi sfugge. Comunque poi la sera che gli ho sparato, cioè la quinta volta via. La quinta volta ti sei rotto i coglioni, questo è il punto. No, e beh, ma cioè, no, era la settima volta era. E dunque che è successo concretamente? Cioè entra l'ultima volta quando gli hai sparato? Praticamente è entrato dentro qui a un magazzinetto che dove sto io adesso, praticamente, io ho le pecore, no? Sì. Ecco, adesso ho finito la munge e qui c'ho... Ah, stai mungendo le pecore? No, adesso ho finito. Ma com'è mungere una pecora? Come lo fai? È semplicissimo, non è un problema. Che fai, con le mani lo fai? Ma fino adesso l'abbiamo fatto con le mani, adesso so un po' più e allora abbiamo messo in moto la mungitrice. La mungitrice, pensa ai vegani. Ma la pecora è scusi professore, la pecora è contenta di essere munta oppure prova dolore? È abbastanza contenta. No, ma sai, i vegani si incazzano, gli animalisti, no? Dicono che non bisogna mungere le pecore, che vengono torturate. Allora, gli animalisti sarebbe da fare una bella cosa. Io non so né un politico né un giustiziere. Gli animalisti sarebbe la prima cosa, fagli capire che vogliamo una famiglia con dei figli, no? Sì, sì. Seconda cosa, fagli capire che tutto ciò che esiste all'infuori dell'umanità serve per sopravvivere all'essere umano. Bravo, bravo, ecco. Bravo. E dunque andassero un po' a fanculo, no? Giustamente. No, allora io una volta mi sono visto quella signora mezza rossa, come si chiama lì? Vabbè, mezza rossa, e chi è? Un'attrice, una giornalista, chi è? Ma una che rompe le palle, che gli agnelli non bisogna ucciderli, i cani bisogna, più dei figli bisogna tenerli. E quindi? E io gli direi, chiederei una decina di figli a sfamare. Sì, e poi dice voglia... tanto di quel benessere, no, che dice lei, e poi vediamo come fa a rispettare certe cose, certe categorie di animali. Comunque tu e i vegani, che gli faresti ai vegani? Ai cani? Ai vegani. Ah, la brambilla era, la brambilla. Ah, la brambilla, bravo, brambilla si chiama, sì. La brambilla, si chiama, è stata una deputata e anche ministro del turismo, la signora brambilla. Quella la devono cacciare via come a Boschi, che ha rovinato l'Italia, ecco. Quella è un'altra che ha rovinato a noi. Allora adesso, dai, su. Abbassiamo un po' i toni. Senta, caro Umberto Allevatore, allora dimmi una cosa, che t'hanno rubato l'ultima volta? L'ultima volta questo ha aperto il cancello dove stavano 57 agnelle, no? Sì. Dall'Evo. E poi si è preso sto filo di rame che lui si è incollato, si è venuto su, se l'è preso per spalla e andava giù a portarsi via sta agnelle, no? E io ho teso i casini, sono venuto su. E gli hai sparato? No, praticamente l'ignoranza di sto individuo, io siccome lo conosco, no? Oh, lo conosci pure, il ladro lo conosci. Che questo, quando gli ho sparato per aria la prima volta... Non è scappato via. E che ha fatto? È venuto verso me. Ma davvero? E come no? Perché se lei viene io gli faccio vedere. Ho detto pure all'avvocato. E allora gli hai sparato? Lui siccome avendo una cettolina in mano, lui si credeva che io magari mi avevo sparato, che ne so, perché io ero zoppo, camminavo. Sì, pure. E veniva verso me. Sì. E l'intenzione mica era tanto seria, perché è mezzo matto questo. Vabbè, allora tu gli hai sparato addosso? Gli ho sparato addosso. Non ti penti per niente di avergli sparato addosso? Ma per carità del Signore, mi ammazzava tanto. Ma lui che è rimasto? Invalido? Che è rimasto? No, lui è andato all'ospedale perché... Lui in ospedale? Sant'Andrea, è stato venuto un giorno, ha firmato e se n'è andato. Lui in ospedale libero e tu agli arresti domiciliari. Per avergli sparato, capito? Gli ha sparato, però. Ma che c'entra che gli ha sparato? Gli ha sparato, ragazzi. Ma che c'entra? Ragazzi, belli, gli ha sparato, però. Ma che c'è? Tu dici uno che ruba le pecore e che vuole rubare le pecore. Ma voglio dire, la vita umana, l'ha detto lui prima. Scusa, la vita umana varrà di più di una pecora, con tutto rispetto per la pecora. Vale molto di più, ma quelli educati, bravi che rispettano gli altri. No, vabbè, comunque, adesso, amico mio, mi dispiace, ha fatto il calcio, tutto quello che fa. Lei, però, ha sparato a una persona. E ho capito quello che stava a rubare le pecore la settima volta che gli ho. Ma ho capito, ma ci sarà una proporzione tra la pecora e una vita umana. Un conto è la vita umana che va salvata sempre. Un conto magari è... Comunque, ragazzi, fate quello che volete. Che rispetta il suo simile. Ma non c'è dubbio che quello è un ladro. Ma non c'è dubbio, quello è un ladro e un criminale. E deve andare in galera perché un ladro è un criminale. Ma un conto è dire che un ladro è un criminale. Ma ha sparato a sbagliare il signore. Ma no, ma mi pare di. Ma lo dice la giustizia, mica io. Ma no, che giustizia? L'hanno assolto, l'hanno. Eh? Alla fine l'hanno assolto. Alla fine. Hanno dimostrato che alla fine era legittima difesa. Però tu non avresti sparato. È sbagliato sparare per una pecora. Cioè, la difesa. Ma per quello la pecora è la vita. Per il signore, per Umberto, la pecora è la vita. Pecora. O no? Se mi aggrediscono nei miei affetti. Aspetta, che ci fai con la pecora? Per me è pane, tutto, formaggio, ricotta, quello che mangiate, carne, tutto. Ma c'ha ragione, no, quanto vabbè, tempo, scusa, per quanto tempo non hai potuto lavorare in quei 10 mesi che sei stato agli arresti domiciliari? Quanti soldi ci hai rimesso? Ma io non è che voglio adesso esagerare, ma intorno ai 20.000 euro io ho rimesso. E quanti soldi ci chiedi adesso allo Stato per ingiusta detenzione o cose di questo tipo? Non ho chiesto niente ancora, perché poi l'avvocato... Vabbè, però i soldi li vuoi chiedere? Ma io mo vediamo, perché... E io ho venduto due trattori. Cioè la cosa dovuto... E allora si è creato un po' di problemi praticamente. È normale, allora questo qua praticamente è stato indagato per tentato omicidio, sì, perché ha sparato però con un fucile sul fatto che... a un ladro però, che era la quinta, sesta, settima volta che andava a rompere i coglioni. Però ragazzi, beh, sul fatto che ci sia l'indagine non è che si può dire che è sbagliata anche l'indagine, perché altrimenti uno... Ma 10 mesi ai domiciliari. Ho capito, mesi. Ma magari sono sbagliati i domiciliari. Però sul fatto che si sia aperto un fascicolo sul fatto che un signore ha sparato a un altro che stava rubando una pecora, voglio dire, alla fine che cosa ti hanno rubato in tutti questi facciamo un po' il riepilogo, alla fine che ti hanno rubato? I prosciutti del maiale. I prosciutti del maiale, poi i prosciutti. Tutti i viveri che ci ho dentro la dispensa. Poi questo poi mi piace molto. Poi hanno rubato tutti i polli. Poi i polli. Poi ho rubato dentro l'officina chiavi, olio, sì? Roba. Mamma mia. Occhio e croce, un 3.000 euro di roba. Tu dici non vale la pena sparare col fucile se uno ti ruba i prosciutti. Tu dici. Secondo me, secondo me. Ma io se lui quella sera scappava via, ben fatto. Non gli sparavi addosso, no? E ho fatto vedere che ero presente in azienda. Lui se ne era andato e finiva così, no? Ma comunque tu ce l'hai, i romeni te stanno un po' sui coglioni, a te sono tutti un po' ladri, diciamo. No, no, comunque guardi, io da quando ho sparato a quello non ci ho avuto più rogne. Prima non separavano, tutte le notti era un problema. E invece adesso hanno capito che tu spari? Hanno no, capito no, che... adesso mi temono un po', perché poi i profetti che stavano con lui, io ho saputo dopo, che sono delinquenti proprio, quando cercano di scappare quando mi vedono. Ma certo, perché questo qua si è mostrato col fucile, per la prima volta ha detto ragazzi, qui se spara, se mi rompete ancora i coglioni, spariamo. Amico. Ma io perché ero zoppo e poi... Ma tu sei bravo a sparare, amico mio Umberto, sei bravo a sparare o no? Ma non lo so, non ci provate comunque. Ma dove l'hai pizzicato questo qua? L'ho preso a piombo fino con le cartucce da piattello. Ah, dunque non poteva morire, sì, beh, so. No, ma che dite? No, assolutamente, a piombo fino con i piccioni, niente, no. E la ferita, vabbè, un ladro che entra in un posto, se uno lo ferisce... Vabbè, ma infatti poi l'hanno assolto, va benissimo, però dopodiché dice... Umberto, viva l'America! Secondo il cognato, che c'è un cognato qui, cioè, il cognato di Romero, lui questa storia è una storia enorme. Cioè? Deve fare 6 anni delle carceri in Romania, che ah, non lo pure, trovo. Pure deve fare 6 anni. Io ho falso nome, a me mi ha detto sempre che si chiamava Francesco, invece non è vero. Cioè, lui è condannato in Romania. È un criminale, dai, è un criminale incriminato. Questo è gravissimo, 6 anni in carcere in Romania e gira in Italia con un altro nome. Ho capito, è un criminale incallito, ma nessuno dice che è un membro autorevole dell'Accademia della Crusca. È un criminale. Ma me frega niente, ma voglio difendere questo qua. Ma me ne frega me di difendere questo qua. È un criminale, ma me frega niente, fatti difendere questo qua. È il fratello. Massimo, il fratello, anche tutta la famiglia, ma sarà una famiglia di briganti, ma cosa devo fare io? Ma se non mi fate parlare, no, vai, prego, è morto folgorato con i fili dell'alta tensione. Ma la tragedia è come Feltrinelli, una tragedia. Vabbè, ma che cazzo ci frega, era ladro pure lui, magari o no? Sì, no, sono tutti ladri. È una famiglia di ladri, che dobbiamo, ho capito, una famiglia di criminali. Diciamo, le sorelle? Fanno le puttane, tutte e due, pure. Tre, ma che bella famiglia, però. Beh, stupendo, sì, però. Ma lei come fa a sapere tutti questi elementi? Le sorelle puttane e i fratelli ladri. C'è un notaio in quella famiglia o no? Un ingegnere, un architetto, ma anche un lavoratore onesto. In quella famiglia lì ce n'è uno buono o no? Uno. Io conosco un amico sull'Aquila che lui li conosce un po' meglio pure. Di me, che nessuno è legittimo. Nessuno. Ma scusa, dove fanno le puttane? E la madre? E il padre? Il padre li caccia la legna in Romania, però dice che pure lui non è tanto per la quale. Scusami, è una famiglia così. Le puttane dove fanno le puttane? Che ti frega, che dettaglio è? Che te ne frega? A Vieste. A Trieste? A Trieste, in Puglia. Ma come cazzo fai a sapere tutte queste cose? Ma perché? Fatto un'indagine sulla famiglia. Adesso glielo dico io, quell'amico dell'Aquila, siccome è scapolotto. Se ne trombava una di quelle. C'ha una 60ina d'anni. Ma comunque la strada vergognosa. Tutte paganica. Non ho capito. Siamo arrivati a un ma punto. Ma non si può alla radio della Confindustria ricostruire la storia di una famiglia di criminali romeni e che sono che non ci se ne frega. Cioè, allora, il tuo amico il tuo amico dell'Aquila. Aspetta, è importante questo. Il tuo amico dell'Aquila si trombava. È scapolotto. Che è scapolotto. È